piano. Di Enrico Ruggeri. La storia che voglio raccontarvi oggi è un dietro le quinte, perché vi ho già parlato del bambino che non voleva crescere mai, che non sono io, o anch'io, ma alludo a Peter Pan, e vi ho parlato delle sue spettacolari avventure. Però oggi scopriremo come dietro a quel mondo fantastico popolato di bambini ci sia stato un uomo dalla vita difficile, cresciuto in una realtà dura, direi drammatica. È un artista che ha costruito la propria opera lasciando volare la fantasia, forse proprio per superare quella realtà personale segnata da disgrazie e anche da un aspetto fisico particolare. Bene, oggi vi racconterò la storia di Sir James Matthew Barry, l'autore di Peter Pan. Dimenticali, Wendy, dimenticali tutti. Vieni con me dove non dovrai mai, mai più pensare alle cose dei grandi. Mai è un tempo seriamente lungo. Dimenticali, non dovrai più pensare alle cose dei grandi. Magari, con queste parole, Peter Pan invita Wendy a seguirlo sull'isola che non c'è nel film del 2003 di Paul John Hogan. L'idea che abbiamo oggi di Peter Pan, come di una fantasia gioiosa, magari un po' superficiale, si basa sul ricordo del film di Disney, quello del 53, oppure su altre versioni della storia, magari un po' zuccherose, un po' ipersemplificate. Il segno inequivocabile di come non sempre le trasposizioni facciano del bene, rendano giustizia all'opera e all'autore, è proprio questo. Il testo della commedia originale è più complesso, è più profondo, così come l'uomo che più di un secolo fa l'ha scritta, che l'ha messa in scena, che ne ha fatto una serie di fortunati romanzi. Dietro alla storia dell'eterno fanciullo c'è una personalità dalla psicologia complessa, divisa tra le responsabilità della vita adulta e l'innocenza infantile. La sua figura è ricalcata, sicuramente cucita addosso alle esperienze personali dell'autore. Il nome di James Barry diventa storia il 27 dicembre 1904. Lui ha 44 anni. Al Duke of York's Theatre di Londra va in scena Peter Pan o il ragazzo che non voleva crescere. La pista teatrale porta una ventata di originalità in un ambiente, quello del teatro londinese, che allora era sicuramente molto ingessato. Insomma, riesce a smuovere questo pubblico piuttosto freddo e l'opera diventa subito famosa a livello mondiale. Viene adattata, viene ampliata, trasformata dallo stesso Barry in un romanzo che verrà pubblicato qualche anno dopo. Nell'epoca vittoriana i bambini, che erano il simbolo dell'innocenza, della purezza, della sensibilità, alla fine vanno, come dire, in sintonia con i gusti del pubblico, perché nell'immaginario di allora la fanciullezza è lontana dalle sofferenze del mondo, e quindi Peter Pan diventa l'emblema di quel periodo, un eterno bambino che ha deciso di vivere giocando. Quindi diciamo che l'opera Peter Pan arriva nel posto giusto al momento giusto, perfettamente contestualizzata, e quindi ha avuto molta fortuna. Sono stati realizzati subito film e poi cartoni animati, musical, programmi televisivi, canzoni. Quasi nessuna di queste versioni però si racconta la storia originale scritta da Barry. In qualche caso c'è chi si è cimentato, diciamo, in versioni alternative. Spielberg, per esempio, nel 91 ha fatto un film nel quale immaginava che l'eterno bambino avesse finalmente deciso di crescere. Così un Peter Pan adulto, interpretato dal grande Robin Williams, tornava sull'isola che non c'è per salvare i suoi figli dal solito malvagio Capitano Uncino. Tu sei Peter? Sì. No. Sì. Tu sei Peter? Sì, io. Ma c'è l'eco qui? Sì, esattamente. Il mio valoroso avversario? Sì. No! Spugna! Oh, no. Chi è questo impostore? Il mefitico Peter Voltepan! No. Ho una confessione. Io non sono Peter Pan, sono solamente una deposizione giurata controfirmata da Trillinellino. Ho la sua cartella critica e ho perfino fammi il calcolatario. Scusi, scusa, vuoi farmi perdere il posto? Sta buono. Posso mostrarle una cosa? No. Le dispiace lasciarmi dentro solo? Dentro questa palla di grasso c'è proprio lui. Ecco, ora le faccio vedere. Spugna, tappagli la bocca. Aspetti, la butta via. Ora basta, capito? Abboccati. Capitano, volete inforcare gli occhiali? Io voglio vedere ora la cicatrice. La ipertrofica. Catastrofica. La cicatrice di quando lo affettaste durante l'incidente di Gigi. Quella è la mia appendicite. E queste? Impronte fresche di fatina, capitano. Se non è Peter Pan, mi mangio una scialuppa con tutti i remi. James Barry è un autore già famoso quando scrive Peter Pan. È un tipo romantico, un personaggio originale, complesso. E lui ha capito come sarebbe davvero un ragazzo che non vuole crescere, proprio perché questo ragazzo, in effetti, è lui. È un uomo che non ha potuto vivere davvero la sua infanzia, che per questo continua a riviverla anche da adulto. E anche nell'aspetto è lontano dalla rappresentazione disneyana del film del 2004 Neverland, dove Barry è interpretato da Johnny Depp. Il vero Barry infatti non arriva al 1,5 metri di altezza, è gracile, ha un aspetto fanciullesco, non certo attraente, è un aspetto fisico che lo condizionerà per tutta la vita. Il falco e il gabbiano. La storia di James Barry, il nostro protagonista di oggi, inizia in un paesino dal nome difficile da pronunciare, Kirriemuir. Si trova nella campagna scozzese a nord di Edimburgo. Lì nasce James Barry il 9 maggio 1860. La sua è una famiglia piuttosto modesta, lui è il nono di 10 figli, il padre David è un tessitore, la madre Margaret è una donna dalla personalità forte che appartiene a una setta presbiteriana molto rigida. Margaret è anche una lettrice avida e appassionata di storie di avventura, così Jamie, come viene affettuosamente chiamato lui, James, in famiglia, cresce ascoltando i racconti che la madre gli legge tutti i giorni e immagina mondi fantastici popolati da strane creature. Margaret ha grandi ambizioni per i figli, tra i maschi il più grande si chiama Alexander, che si laurea col massimo dei voti e che diventerà docente di lettere classiche alla Glasgow Academy. Il secondo, David, è un ragazzo alto, atletico, affascinante e probabilmente il preferito dalla madre, che vuole vederlo diventare un giorno minister, cioè ministro del culto protestante. James invece, a differenza dei fratelli, non ha grandi doti scolastiche, poi è piccolo e tozzo, insomma è il figlio uscito un po' meno bene degli altri, però ha una grande fantasia, passa le giornate a giocare, a inventare storie, in scena spettacolini nella lavanderia di fronte a casa in compagnia di un amico che si chiama Roy. Poi però questa vita serena si interrompe bruscamente, siamo nel 1867, James ha 7 anni, quindi è la vigilia del 14° compleanno del figlio David, il ragazzo quello atletico, che sta pattinando, perde l'equilibrio, cade, batte la testa e muore sul colpo. Per lui, per James, cambia tutto in questo momento, la tragedia travolge l'intera famiglia, e soprattutto Margaret, la madre, che si chiude in casa, si rifiuta di mangiare, di parlare, cade in una depressione dalla quale non si riprenderà mai. David diventerà in un certo senso il simbolo del ragazzo che non vuole crescere, e James elaborerà questo lutto, elaborerà la sua figura inserendola in tanti personaggi delle sue opere. Dopo la morte di David cambia tutto e Jamie trascorre la maggior parte del suo tempo nella stanza della madre, seduto sul letto per cercare di confortarla. E nel libro che scriverà in memoria della madre lui spiega come dentro di lui la gelosia per il fratello fortunato, almeno solo inizialmente, lascia il posto al desiderio di sostituirlo. Lui vuole che la madre torni a guardarlo, a considerarlo, magari addirittura a sorridere, e cerca una strada che diventa stravagante, comincia a indossare i vestiti del fratello morto, impara a camminare, a fischiare come lui, insomma mette in scena David, lo interpreta in un ruolo da cui non esce mai, insomma ci sarebbero molte cose da dire sulla psicanalisi di questa famiglia. Io ho perso mio fratello David quando avevo l'età di Peter. Era cosa ha quasi distrutto mia madre. James, mi dispiace. Povera tua madre. Non riesco a pensare di perdere un figlio. Già. Non si è alzata dal letto per mesi. Non voleva mangiare. Ho provato di tutto per farla felice, ma lei voleva solo David. Così, un giorno, mi sono messo i vestiti di David e sono andato da lei. Da rimanerne acchiacciati. Credo che in quell'occasione mi abbia guardato per la prima volta. Nel film del 2004, Neverland, un sogno per la vita, Johnny Depp interpreta questo James Barry adulto all'apice della sua carriera. Noi siamo ancora lontani però da quel momento. Per adesso James è solo un bambino che è stato costretto dalla vita a lasciare da parte la sua spensieratezza e che sta diventando il consolatore della madre usando questo stratagemma, come dire, quantomeno delicato, cioè vestirsi come il fratello morto. In un certo senso lui perde lì la sua infanzia e l'infanzia diventa per lui un miraggio perduto, una specie di età miracolosa. Forse proprio per questo aspetto, che finisce per avvicinarlo alla madre, lui instaurerà con lei un legame profondissimo al limite della morbosità. Ed è dalla madre che James prenderà l'ispirazione per creare un altro personaggio famosissimo, la piccola Wendy, madre per gioco. Però la figura di Margaret non è limpida come Wendy, come il suo alter ego. Ecco come Alison Lurie, premio Pulitzer, descrive la madre in un saggio del New York Review of Books del 75. In Margaret Ogilvy, scritto subito dopo la morte della madre, Barry riferisce tutta la sua storia, ma senza avere apparentemente coscienza del fatto che si tratta di una storia strana o che i lettori possano trovare discutibili affermazioni come «Nulla di quanto accade dopo che abbiamo raggiunto i 12 anni fa alcuna differenza». Sua madre appare come una donna di insolita originalità, immaginazione e fascino. Egli sembra inconsapevole di stare descrivendo una persona dotata di un'ambizione terrificante e di una possessività patologicamente gelosa. Tra i tanti difetti, insomma, problemi di questa famiglia, però c'è una madre che in qualche modo trasmette la passione per la lettura al figlio. Lui legge Robinson Crusoe e si innamora delle storie d'avventura, si immerge in questi racconti pieni di pirati, di isole deserte, di battaglie all'ultimo sangue. Poi si abbona, legge avidamente diversi Penny Dreadfuls, che erano i racconti a puntate che erano molto di moda in quell'epoca, e appassionato, insomma, la madre lo sprona a scrivere dei racconti suoi, e la madre rimarrà sempre il primo giudice dei suoi scritti anche quando lui sarà adulto, e non avevamo dubbi su questo. A 13 anni James va a vivere col fratello maggiore Alexander, che sta facendo l'ispettore scolastico a Dumfries, siamo nel sud della Scozia. Lui passa 5 anni che ricorderà come i più felici della sua vita. Intanto si appassiona al football, al cricket, legge moltissimo. Coral Island di Ballantyne diventa il suo libro preferito e sarà di ispirazione per dare vita all'isola che non c'è. Poi a 18 anni, quindi siamo nel 1878, lui torna nella sua città natale, Kirriemuir. Ha tutte le intenzioni di diventare uno scrittore, però i genitori hanno cambiato idea, lo iscrivono al corso di laurea in giurisprudenza a Edimburgo e lui non ha voglia, segue gli studi ma senza molto impegno, sta provando la carriera di critico teatrale, di giornalista per il Nottingham Journal, e si distingue per il suo humor un po' cinico che naturalmente i lettori un po' provinciali di quel giornale spesso non capiscono. E poi arriva il suo primo colpo d'ala, però bisognerà aspettare ancora qualche anno. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di James Matthew Barry, lo scrittore, l'autore di Peter Pan, e stiamo raccontando di un'infanzia che nasce felice ma viene spezzata dalla improvvisa morte del fratello maggiore. Da qui parte un rapporto intenso e direi morboso con la madre, e poi si arriva alla sua prima vita lavorativa, che è quella da giornalista, e poi arriva il successo con l'opera che lo ha fatto entrare nella storia della letteratura mondiale. A 25 anni Barry parte per il sud, cioè va a Londra perché vuole guadagnarsi da vivere lavorando come scrittore. Collabora con molti giornali, con dei periodici, insomma spera che il giornalismo possa essere un ponte verso la letteratura. Lui si sta occupando di critica letteraria, di prosa, di teatro. Ha uno stile caratterizzato da un tono personale piuttosto forte. Scrive anche pezzi umoristici, ma i primi tentativi in questo senso sono un po' troppo sofisticati per i lettori del tempo, insomma, per ora ha scarsa fortuna. Poi nel 1888, 28 anni, arrivano i primi riconoscimenti, comincia a pubblicare dei romanzi che descrivono la vita rurale tipica del suo villaggio natale, e i libri hanno successo. The Little Minister rappresenta il suo primo colpo d'ala, diventa un bestseller internazionale. Pensate che Robert Louis Stevenson, scozzese anche lui, rimane talmente colpito da questo libro che scrive all'autore per complimentarsi. Barry risponde alla lettera, inizia una corrispondenza che durerà anni. Insomma, stiamo parlando di un signore che ha scritto L'Isola del Tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde e molte altre cose. Però il successo non cambia la natura complessa della sua personalità, non risolve i suoi problemi esistenziali, sono troppo radicati. Ecco come la scrittrice Alison Lurie descrive Barry in quegli anni. Barry realizzò il suo desiderio e mantenne la promessa fatta a sua madre, ma a caro prezzo. Divenne un uomo celebre e in un modo peculiare e terribile si trasformò in David. Divenne e restò per tutta la vita un brillante ragazzo alle soglie della pubertà, profondamente legato a sua madre. Barry non fu alto mai più di 1,5 metri e fu sempre gracile, di apparenza giovanile, con una piccola voce sottile. Nelle fotografie sembra un ragazzo che porta dei baffi posticci. Sebbene incline a cotte romantiche per donne graziose, era apparentemente incapace di amore fisico. In questo periodo lui diventa il punto di riferimento della Kailyard School of Scottish Fiction, è un gruppo di scrittori che parla di storie rurali scozzesi, che negli anni 90 comincia a rubare la scena dei colleghi illustri come Kipling, Conrad o Henry James. E Barry intanto comincia a scrivere per il teatro e diventa subito acclamato perché viene considerato un innovatore addirittura anche al di là dell'Atlantico. E lui a teatro conosce Mary Ansell, che è un'attrice che recita nel cast di Walker London, che è una sua opera. Mary lascia il suo lavoro e sposa James. Durante il viaggio di nozze in Svizzera i due comprano un cane che chiamano Portos e che sarà destinato a ispirare un personaggio del racconto di Peter Pan, il cane governante Nana. Nel 1896 Barry conosce l'impresario americano Charles Frohman, che ha preso in gestione il Duke of York's Theatre di Londra, che è un teatro molto famoso in quegli anni. E questo Frohman diventerà amico di James, sosterrà la sua carriera in tutti i modi e giocherà un ruolo importantissimo per la realizzazione di Peter Pan. James non è molto tagliato per la vita matrimoniale, ha un rapporto strano con la moglie Mary, anzi pare che insomma il matrimonio non sia mai stato consumato, forse per quella diciamo incapacità di amore fisico di cui abbiamo sentito poco fa. Lui trascorre le giornate a passeggiare con il cane Portos nei giardini di Kensington vicino casa, e qui fa la conoscenza di due bambini, Jack e George Llewellyn Davis, e della balia Mary Oxon, e poi c'è un terzo fratellino che è ancora in fascia, il piccolo, attenzione, Peter. E poco tempo dopo James conosce anche Sylvia e Arthur, che sono i genitori dei bambini, e la casa di questa famiglia diventa una delle migliori distrazioni per James, distrazioni dalla vita coniugale. Insomma, praticamente lui fa tutto tranne che infilarsi nel letto con la moglie. I ragazzi passano delle bellissime giornate al parco a giocare con Portos, a inventare storie fantastiche, storie che ispireranno la produzione di Barry. Negli anni successivi arrivano altri due fratellini, Michael e Nicholas, i fratellini di questa famiglia, e ecco come la scrittrice Alison Lurie descrive questi momenti. Le visite costanti, le storie, i giochi, i regali continuarono, interrompendosi soltanto durante le estati. E nel 1901 i Davis affittarono un cottage per le vacanze sul Black Lake nel Surrey, quasi accanto al cottage di campagna dei Barry. Per 6 settimane essi si videro quasi tutti i giorni. Barry compiva 41 anni quell'estate ma sembrava più un ragazzo adolescente che un uomo adulto e fu apparentemente accettato come tale dai ragazzi Davis. A loro sembrava un fratello più grande, meravigliosamente intelligente, l'inventore e il capo di una lunga serie di giochi eccitanti nei boschi e sulle sponde del lago. Insomma, è nata questa strana comunità con i piccoli Davis che diventano una parte fondamentale della vita di Barry, sono una fonte di ispirazione, lui passa molto tempo con loro e nel marzo del 1904 James completa la prima stesura di una nuova opera alla quale sta lavorando. È uno spettacolo. Inizialmente prevede un cast di una cinquantina di persone, con pirati, indiani, un coccodrillo, un cane, una fata. E almeno quattro di questi personaggi nella sua testa devono poter volare in scena. Froman produce l'opera, così nell'ottobre del 1904 iniziano le prove al Duke of York Theatre. C'è una grande attesa. A dicembre il teatro è costretto a reclutare delle guardie di sicurezza per tener lontani i giornalisti. Lui passa il tempo a scrivere, a riscrivere la storia, apporta continue variazioni, ci sono delle scene che sono un po' troppo difficili da realizzare che vengono eliminate oppure modificate. Signor Barry, deve esserci stato un errore, signore, dice che devo interpretare il ruolo della tata. Non penso di essere proprio in parte. Voi non siete in realtà la tata. No. Siete un cane. Cosa? Un Terranova. Porterete un grande costume peloso da cane. Bene. Sì. Veramente manca l'attore per la parte di Campanellino Trilli. Potrebbe farla lui, Campanellino. Ah, ma no. Campanellino è una luce che si muove sul palcoscenico. Solo una piccola luce che si muove sul palcoscenico. E insomma, siamo quasi pronti. E l'opera, ovviamente, si chiama Peter Pan. E la prima si tiene il 27 dicembre 1904. E arriva tutta l'elite della società londinese. Arrivano i critici, arrivano i giornalisti. Barry è preoccupato perché ha paura che l'opera non venga compresa. Però ha la sua idea geniale. Ha un colpo d'ala in serbo. Alla prima devi tenermi 25 posti. Tenerti? 25 posti, 25. Esatto. Sparsi per tutto il teatro, due qui, sì. Due là, tre lassù. Posti pagati? Sono venduti. No. Sta tranquillo, i posti saranno occupati. Charles. Che c'è? Sono arrivati. Chi è arrivato? Li perdonerai del ritardo. Gambette corte, è lunga dall'orfanotrofio. Non so bene che ci facciano qui. Sono qui per lo spettacolo. Sono per loro i 25 posti. 25 posti dati agli orfani, certo. Ora il mio incubo è completo. Inizia il tuo spettacolo ora. Il tuo spettacolo? Eh sì, 25 posti dati agli orfani, spettatori insomma che rimangono ovviamente colpiti da questa commedia più di altri perché va a toccare i loro nervi scoperti e finiscono per coinvolgere il resto del pubblico, certo un gesto caritatevole ma anche un gesto ben studiato, d'altra parte insomma conosco colleghi che mettono delle persone disabili davanti e poi le vanno a abbracciare apposta per far vedere che sono buoni, quindi tutto il mondo è paese. La platea è abituata a delle commedie impegnate, però rimane a bocca aperta quando si alza il sipario, quando c'è un cane che prepara un bambino per il bagno, insomma tutti sono stregati dalla magia della storia e anche il cast rimane sconvolto dalla accoglienza di quel pubblico. L'attrice che interpreta Peter Pan a un certo punto chiede agli spettatori se credono alle fate, la risposta è così sentita che lei si mette a singhiozzare dall'emozione. L'intera stagione di Peter Pan è un grandissimo successo. Durante le vacanze vanno in scena anche 12 rappresentazioni alla settimana. I critici definiscono Barry l'uomo di genio. Dalla prima messa in scena di Peter Pan, la carriera di James Barry sarà sempre in continua ascesa. È esploso, riceverà riconoscimenti e onori fino ai suoi ultimi giorni. La sua vita privata ovviamente non è altrettanto serena. Nel 1906, quando Barry pubblica il libro di Peter Pan, viene diagnosticato un cancro al suo amico Arthur, il padre dei piccoli Davis, e l'uomo morirà l'anno successivo. Così James si assume la responsabilità del mantenimento economico della moglie Sylvia e degli orfani che erano rimasti sul lastrico. ci sono delle voci maligne che descrivono Silvia come amante di Barry, voci difficili da controllare. Addirittura c'è chi si spinge oltre, descrive l'autore con tendenze pedofile perché è interessato ai piccoli Davis in maniera, diciamo, non amorevole. Ovviamente sono male lingue, insomma, quando si ha un successo così plebiscitario è facile che a qualcuno questo successo provochi, insomma, quello che oggi si dice, si rosica un po', però in effetti, insomma, all'epoca il fatto che un uomo adulto passasse le giornate a giocare con dei bambini desta dei sospetti. Mi sembra un caso un po' simile a Michael Jackson. A aggravare la situazione arriva il divorzio, perché nel 1909 Barry chiede la separazione dalla moglie Mary. Poco dopo il divorzio da Mary, anche a Silvia, come al marito, viene diagnosticato un cancro e Silvia muore nel 1910. Ha lasciato un testamento nel quale ovviamente esprime la volontà di non separare i figli. Lei, secondo alcune voci, avrebbe suggerito come tutrice la sorella della loro balia, però nel testamento appare il nome di Barry e c'è il sospetto che lui abbia manomesso le carte per ottenere la custodia dei cinque bambini. Comunque siano andate le cose, è certo che solo James può mantenerli, ha la possibilità economica di farlo. Alison Lurie, nel saggio che ha dedicato a Barry, racconta come i rapporti vanno peggiorando. I ragazzi Davis erano ora effettivamente di Barry, ma non sarebbero rimasti i ragazzi. Uno dopo l'altro, crescendo, essi cominciarono a trovare i suoi giochi e le sue battute imbarazzanti e a essere contrariati della sua presenza nella casa. Un imbarazzo e un risentimento complicati dalla consapevolezza che questo strano piccolo uomo, che sembrava un bambino invecchiato, stava pagando i conti dei fornitori e le loro tasse a Eton e Oxford. Sì, sarebbe dovuto accadere. I ragazzini stanno diventando più adulti di lui e questo ovviamente crea degli attriti. Poi da lì a poco arriva la prima guerra mondiale. Nel 1915 il maggiore dei Davis, George, che sarebbe nella testa di James l'archetipo di Peter Pan, viene inviato al fronte nelle Fiandre occidentali e morirà lasciando un vuoto enorme nell'animo di Barry, un'altra perdita da sopportare. Poi Peter, l'altro fratello, si arruola, sopravvive, ma torna molto segnato a quella che viene definita una psicosi traumatica e morirà parecchi anni dopo, nel 1960, gettandosi sotto un treno, pochi mesi dopo la morte del fratello maggiore Jack. Anche Michael muore di morte violenta, annega nel 1921 a 20 anni, abbracciato a un amico, forse l'amante. Insomma, per questi bambini un destino terribile. Il primo maggio 1912 Barry assiste alla posa della statua di Peter Pan nei giardini di Kensington e qualche anno dopo viene insignito del titolo di baronetto. Nel 1922 riceve l'ordine di merito, verrà anche nominato rettore della St. Andrews University, nel 1930 cancelliere dell'Università di Edimburgo, cioè è un uomo super famoso e super gratificato. Scrive fino all'ultimo, ottiene successi altalenanti ma è sostenuto dall'immenso trionfo del suo Peter Pan. Muore nel 37 a 67 anni e lascia in eredità i suoi diritti d'autore all'ospedale pediatrico Great Ormond Street Hospital, anche perché non ha più nessuno a cui pensare. Comunque vogliate considerare questa storia, è certo che James Barry è stato un uomo brillante, un uomo di successo, un uomo di genio, ma è certo anche che è stato molto controverso, ha dato vita a una sua straordinaria immaginazione, ci ha regalato una delle più belle opere mai scritte e questo dimostra come a volte dei traumi terribili, se capitano a persone di talento, possono generare grandi opere e come sempre, insomma, il confine tra i propri fantasmi e il successo che hai nella vita è molto sottile. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i nostri riflettori, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure al sito di Radio 24 oppure sui nostri social, sui miei social, e se volete sapete dove trovarci. Ciao, a domani.